avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu. Per tutti coloro che hanno già messo le pinne e l'asciugamano nel bagagliaio della macchina, ricordo che domani è il 2 giugno, è il 55ennale della proclamazione della Repubblica Italiana. È una grande festa nazionale, si ricorda un grande evento. Gli italiani votarono per la Repubblica e nacque la Repubblica Italiana. Però questa mattina, visto che è l'ultimo giorno, mentre preparate il panierino per il lungo ponte, primo e forse ultimo ponte dell'anno, unica vera cupidigia che probabilmente invaderà i vostri animi, vorrei portare alla mente ciò che non è stato rimosso in questi 55 anni. In 55 anni sono successe tante cose, accadute tante cose, ma non è che sia calata una sorta di lama di ghigliottina. Il 2 giugno tutto quello che c'era prima è scomparso dal ricordo, dall'emotività, dagli strascichi sentimentali, dalle lunghe sfumate che hanno i ricordi quando mai se ne vogliono andare. Beh, questa mattina vorrei confrontarmi con voi e vedere cosa è rimasto di prima del 2 giugno. Cosa è rimasto di prima del 2 giugno? Lo potete voi analizzare scandagliando i vostri ricordi remoti, facendo un'analisi profonda al vostro hard disk biologico e vedere, al di là delle varie sovrascritture che avete fatto, cosa può riemergere per un attimo in superficie di bello, di brutto, di funesto, di gioioso, di degno comunque di riflessione, di ciò che accadde prima di questi 55 anni. Ci fu un momento in cui l'Italia, appena uscita da un periodo lungo, da un periodo buio, da una guerra civile, da privazioni, da dolori, da lutti terribili, da lotte fratricide che la mia generazione si è portata sulla carne in racconti che ci hanno seguito fino all'età adolescenziale, di fame, di carestie, di stenti, di omicidi in famiglia, di liti tra vicini, di parate, di sfilate, di guerre, di trincee, di feriti, di morti e via dicendo. Noi le abbiamo vissute queste cose, come se le avessimo vissute, che le hanno vissute i nostri genitori. Chi non le ha vissute probabilmente ne ha un ricordo semplicemente da quello che è il racconto, a volte fatto per elaborare, a volte fatto per dimenticare, a volte fatto perché nessuno dimentichi, appunto, di quello che accadde prima di questo 2 giugno. È questo che faremo questa mattina attraverso la storia del cinema, come sempre facciamo con Giuseppe Sanzon. Hai visto? Ce l'hanno fatta. Non è mica detto, sai. Figurati se danno in mano il governo con la gente lì, ma non può mica durare. Vedrai che le cose cambiano, guarda, da così a così. Te lo dico io. Ma dimmelo, il re l'hanno cacciato. Ma che cacciato? È stato lui che li ha fatti entrare. Così anche la Repubblica, ti saluto Carolina. Però un momento, vuol dire che deve ancora parlare. E certo, l'ultima parola è su, e quando parla, so cazzo. Ammiraglio, spassionatamente, cosa ne pensa di questi fascisti? Crede che mettiamo il paese in buone mani? Mi dica fuori dai denti qual è il suo parere, perché siamo ancora in tempo a sbatterli fuori, eh? Spassionatamente, maestà, mi sembra gente seria. Ma sì, proviamoli per qualche mese. 800240024, date fondo ai vostri ricordi, o perlomeno cerchiamo di capire questa mattina su quale materia siano costruiti i nostri ricordi. Tradizione orale, esperienza reale e concreta, letture e soprattutto cinema. Già qualcuno puntualmente mi ha ricordato che in realtà sono 65 anni dal quel fatidico 2 giugno del 46. Se così non fosse, io sarei figlio del referendum, e invece sono figlio di tutt'altra cosa. Giuseppe Sanzon, buongiorno. Buongiorno. Allora, cosa abbiamo cominciato ad iniziare? Noi raccontiamo questa mattina il ricordo attraverso il cinema, ricordo freschissimo nei film fatti coevi ai fatti di cui stiamo parlando, lentamente ricordo che diventa interpretazione quando passano gli anni, ricordo sempre più sfumato poi negli ultimi film, che poi diventeranno fiction televisive, diventeranno riedizioni, rielaborazioni, rifacimenti, remake di ciò che era stato fatto allora. Questo è La marcia su Roma di Dino Risi del 1962, nei primi anni 60 c'è la rielaborazione da parte del cinema italiano di del periodo bellico. Qui in realtà si parla del Miles Gloriosus Gassman, che è un reduce della Prima Guerra Mondiale, che aderisce al fascismo per motivi di opportunismo, di fame, e della sodezza tutta padana e contadina, invece del piccolo contadino Tognazzi, che aderiscono appunto sulle prime al fascismo, convinti che ci sarà una redistribuzione delle terre, la possibilità di essere integrati. Poi ne scoprono la violenza estrema e la ferocia, perché poi a Sansepolcro in realtà, quando si stirò il manifesto del fascismo, si presero molte cose del marxismo, c'era di fondo una sorta di spinta sociale fortissima, che poi si rovesciò di colpo. Questi due tipi umani che attraversano l'Italia sulla scia della marcia su Roma vengono tratteggiati dai soliti leoni della commedia italiana, e poi arrivano a Roma, e qui c'è questo dialogo finale che abbiamo ascoltato fra il re e Diaz, Armando Diaz, che riflettono assai poco profeticamente sul futuro del fascismo. Ecco, al di là dell'analisi storica, che ci sono persone che hanno molti più titoli di noi di farla, cerchiamo di capire com'era letto nel 1962 questo evento. Innanzitutto, per parlarne con una certa leggerezza, sì, sono passati un po' di anni rispetto al 46. Immediatamente dopo si pensava ad altre cose, a ricostruire, ancora erano troppo fresche le ferite e gli eventi. Nel 62 comincia il cinema a occuparsi, con questo film, di riprendere in mano un po' questo fenomeno, quello che era accaduto, cominciare a farsi delle domande, quando ancora gran parte dei protagonisti di quella storia sedevano ancora negli scranni del Parlamento, perlomeno ne erano molto vicini. Ma sai, fondamentalmente io penso che la grandezza di questo cinema sia nel tratteggiare dei tipi umani che ci raccontano una cosa di fondo, che gli italiani non hanno mai creduto fino in fondo nelle ideologie, sono stati sempre legati a delle maschere ideologiche che hanno indossato per appunto come tali, come qualcosa di fittizio e assolutamente provvisorio, che non si tatua sulla pelle e non ti conduce all'eroismo se non casuale. Abbiamo continue dimostrazioni, fa parte delle nostre miserie, dei nostri splendori questo. Sì, sì, c'è il DNA, la capacità di il trasformismo, l'allenamento continuo perpetrato nel secolo scorso, insomma, al trasformismo continuo, alle capriole. Ma noi siamo ideologicamente bipolari, questo è il nostro problema. Il bipolarismo, inteso come patologia psichiatrica, è la nostra caratteristica legata all'ideologia. Noi andiamo da delle euforie fantastiche, scendiamo in piazza, ci sbracciamo, ci coloriamo multicolori, a dei momenti depressivi in cui sembra che improvvisamente il male, nella sua raffigurazione più concreta e più plumbea, ci abbia attraversato. Sì, siamo anche multipolari, oltre che bipolari, effettivamente dalla patologia all'ideologia ci sono. Ma per esempio Tognazzi stesso in persona era un aderì alla Repubblica Sociale da ragazzo, sicuramente per motivi anche di opportunismo, come tantissimi. De Sica, Vittorio De Sica era un alfiere dei telefoni anche bianchi. Anche Gassman ha avuto una sua storia credo prima di essere attore. Meno decisa di quella di Tognazzi, ma la grandezza di Tognazzi è stata poi quella, al di là delle ideologie, quella di tratteggiare un tipo umano, un italiano sfumato e articolato, affidandosi poi a anarchici di genio come Ferreri, sì, poi Salce, prima Rocchetti, appunto Rocchetti, Domenico Rocchetti, il Miles Gloriosus Plautino, come dicevamo prima, che rappresenta appunto questo italiano. Ecco, appunto, Gassman, abbiamo detto altre volte, era troppo eroico nel fisico e troppo titanico e quindi ha dovuto ingoffirsi, incanaglirsi per avere successo in Italia, sennò era troppo antico, troppo come Aiace per essere appunto calato nel costume italiano. 800240024, la domanda che vi faccio questa mattina è attraverso quali supporti della memoria, supporti concreti, supporti tangibili, supporti verbali, siete via via entrati in possesso del trapelare della storia che non avete vissuto. Noi stiamo questa mattina cercando di ricordare come è stata narrata dal cinema questo tipo di storia. Con le buone maniere si ottiene tutto, no? Avanti, che vuoi? Cosa voglio? La divisa che mi hai rubato. Guarda questa quanto è bella. Ma questa non è la mia divisa. Ma è più bella della tua. Ci voglio rimettere. Ti do pure il cappello con la gallina d'oro. L'aquila. E gli stivali. Ti piace, eh? Ma questa è una divisa da federale. Vabbè, non so se posso permettermi di indossare. Certo che può. La sua missione è compiuta e questo è il suo premio. Sì. E tu non ti compri niente? Guarda come sei vestito male. Per andare in galera va benissimo. Vuoi pure tu una divisa? Nera? O grigio verde? Ce n'ho anche una da generale, con la greca. Grazie. Beh, strano, eh? Oggi le divise tutte le buttano e quello ne vuole una. Sì, è un ostinato. Ma... Certo, in queste nostre rassegne ci rendiamo conto che la storia del nostro paese è stata tracciata dal punto di vista cinematografico, che ha un supporto da non disprezzare. Ricordiamo molto più film che libri di scuola, fondamentalmente da 3 o 4 persone, di cui Gassman e Tognazzi sono, diciamo, come i docenti principali di questa università attraverso il cinema. Coadiuvata da un esercito di sceneggiatori e di registi molto abili a intuire appunto queste sfumature. Qui Salce capisce che Tognazzi va svincolato dalla coppia. Il film è il federale. Con Vianello, sì, e gli concede questo ruolo da protagonista nel federale, che è del 61. E qui c'è il primo Arcovazzi, che è appunto un fascista magnificamente ottuso, che in un momento in cui il fascismo sta sfumando fa di tutto per continuare a perseverare. Deve portare questo filosofo antifascista a Roma, lo deve deportare, ci sarà questa sorta di road movie col sidecar, ed è bellissima una frase che dicono su di lui i suoi gerarchi, dice: ci ha messo 20 anni a imparare quello che sa, ce ne vorranno altri 20 per toglierglielo dalla testa. E qui è un caso particolare, il suo eroismo è legato all'ottusità. Si comprerà, sì, si autoinvestirà con questa divisa da federale comprata dalla ladra Stefania Sandrelli, e questa sarà la sua condanna. Il meccanismo di autoalimentazione delle persone in quel periodo, ho conosciuto di persona, era proprio mettere nel DNA questa sorta di idea che non bisognasse mai cambiare idea. Se io parto, comincio a costruire la tua coscienza e la tua percezione del mondo esterno con una piccola stringa di codice che ti dà l'input, non devi cambiare mai idea. Cambiare idea significa autodistruggerti. Poi tu puoi andare avanti dritto, appunto come va il federale di Tognazzi, senza pensare sia nemmeno possibile sovrascrivere una propria idea. Sì, poi la capacità di contestualizzarsi è sintomo di intelligenza, senza scivolare negli opportunismi ovviamente, ma l'italiano ha proprio una sorta di istinto di conservazione che lo fa irridere di fondo qualsiasi atteggiamento estremo. Anche qui era molto evidente nel rapporto appunto fra il prigioniero politico e il federale, erano totalmente antitetici nel fisico, nel modo di porsi, nella sensibilità. Uno rappresentava tutte le virtù e l'altro rappresentava tutte le ottusità, naturalmente. Sì, però ci sono, la cosa bella del film è che ci sono anche delle sfumature, perché poi è Joris Wilson, il professore Erminio Bonafè, che lo salva alla fine dall'inciaggio, quando è una scena più bella, quando arrivano a Roma e lui la vede piena di americani. Ah, ma Roma è piena di prigionieri americani, dice il federale Tognazzi, cioè e infatti quando lo vedono in divisa da federale non lo fucilano subito, ma gli fanno una foto, cioè la sorta di previsione di quello che da invasore a turisti, come un gladiatore davanti al Colosseo. Esatto, era ormai quello, era un residuo di un periodo storico. Sentiamo Luigi, buongiorno, grazie per avermi fatto partecipare alla trasmissione. Io volevo raccontare un piccolo episodio di mio nonno che è stato nella 10ª MAS, e lui era in stanza nel Mediterraneo, poi quando finì la guerra ritornò. Lei quanti anni ha, Luigi? Io ho 34 anni. Ah, è molto giovane, infatti. Sì. E lui mi raccontava sempre l'aneddoto per cui io gli chiedevo: ma nonno, ma perché non vai a votare, insomma? E lui mi dice: caro nipote, in dialetto mi diceva, io una volta sono andato a votare e mi disse: ho votato Repubblica e ho sbagliato, allora non è andato più. Però lui il 2 giugno la festeggiava più del suo compleanno. Erano persone particolari, hanno vissuto secondo me un'epoca molto particolare, dei veri patrioti. Non volle la pensione di guerra e secondo me vanno un pochettino rivalutati anche questi aspetti, diciamo, della storia. Guardi, lei parla di suo nonno, io parlo parenti molto più vicini, avendo un'età diversa alla sua, che hanno passato lo stesso iter e la stessa esperienza. Quindi conosco molto bene la tipologia umana. È una tipologia molto poco rappresentata, anche nelle riletture che se ne fanno oggi, sono fatte da persone che non li hanno conosciuti di prima persona, perlomeno al tempo che si manifestarono nella loro espressione post-bellica, erano talmente considerati emarginati e scomunicati che nessuno gli è stato veramente ad ascoltare. Erano persone veramente, non votavano, non riconoscevano nulla di ciò che era stato fatto dopo, avevano avuto questa sorta di input, di meccanismo di imposizione categorica che non occorreva cambiare idea. sono pienamente d'accordo e condivido quello che lei ha detto. È una generazione che andrebbe capita, studiata e compresa, soprattutto che erano giovanissime al tempo. Il suo nonno era nella decima massa, quindi probabilmente erano una delle ultime generazioni andata di leva, avrà avuto se no 18-19 anni nel tempo che ci fu la guerra. Marcello, buongiorno. Buongiorno. Eccomi qua, buongiorno. Niente, diciamo, io ho vissuto i primi anni della mia vita con un padre. Quanti anni ha lei? Io ho 51 anni. Siamo quasi coetanei. Sì. Ho vissuto i primi anni della mia vita, sfortunatamente mio padre è morto molto giovane, è morto che aveva 59 anni. E impregnata di storia, nel senso che mio padre ha fatto sì che io poi leggessi parecchio su quel periodo storico, dal De Felice a Pisanò, certo. Storia della guerra civile in Italia, erano dei volumoni che compravano a dispense quasi clandestinamente i nostri genitori e poi raccoglievano e stavano tutte le notti a sfogliarli, sfogliare, a guardare gli episodi, le foto e via dicendo. Pochi ricordano questa generazione, mi fa piacere sentirla. Sì, pochi ricordano questa generazione, dottore, è vero. Mio padre aveva partecipato anche lui alla decima massa, era nel battaglione Barberigo. E mi ricordo che si diceva sempre che il 2 giugno lui l'aveva festeggiato insieme agli americani, che a detta sua avevano dato a questo battaglione che aveva combattuto, diciamo, contro i titini su quella zona che era praticamente da Trieste, che andava verso la Jugoslavia. E lui il 2 giugno mi diceva sempre che l'aveva festeggiato in campo di concentramento a Coltano, che sinceramente ancora oggi non so dove sia. Io lo so, perché anche mio padre c'è stato. E lì aveva conosciuto Walter Chiari, che era in campo di concentramento con lui. Anche Walter Chiari aveva partecipato alla 10ª flottiglia MAS. E niente, io ho vissuto praticamente quegli anni insieme a mio padre, doveva praticamente... Ecco, la cosa che ricordo, Marcello, al di là poi dei commenti che potranno farci e degli anatemi potranno lanciarci, ma nessuno si sceglie i padri, noi siamo tutti contenti, certo, di averceli avuti. Quello che nessuno ricorda... Che mio padre non era fascista, assolutamente. Finché era nella decima massa lo sarà stato, come lo è stato il mio, come lo sono stati tutti i padri della nostra generazione. Ecco, guardi, quello che voglio dire è questo... Tante persone della 10ª flottiglia MAS, mi diceva, non avevano partecipato per combattere in nome di Mussolini, ma per combattere in nome dell'Italia. Era la stessa cosa per loro in quel periodo. Tenga presente che aveva 17 anni, dottore. È la stessa generazione di mio padre, erano partiti volontari l'anno, esatto, in cui potevano anche non andare a combattere. Voglio dirle però, quello che non ci si ricorda, che ci fu una generazione, chi ha avuto il padre fascista, ma chi l'ha avuto anche antifascista, partigiano, comunque combattente, che per una decina di anni, per tutti gli anni 70, a casa era una continua lettura e rilettura della storia, a seconda del padre che uno aveva, perché erano documentatissimi questi genitori, perché erano passato questo momento epocale, fantastico, hanno vissuto di persona nel bene o nel male, nella sofferenza, nella vittoria, nella sconfitta. Quindi avevamo dei genitori documentatissimi, hanno tutte le dispense, tutti i libri, tutte le pubblicazioni. E il racconto quotidiano ai figli, anni in cui la televisione esisteva più o meno, era fatta dei racconti della guerra. Io non so, ma la generazione dei cinquantenni oggi è nata, è cresciuta e sa tutto, la seconda naturalmente del punto di vista e dell'orientamento della famiglia in cui è nata e vissuta, su quello che hanno stati gli anni della guerra. Grazie Marcello. Papà, io ho sentito. E perché non ti sei alzato? Ti presentavo il maggiore Nocella, tanto una brava persona. Papà, ma che ti sei messo in testa? Ma perché non lo sapevi che il maresciallo Graziano ha ricostituito l'esercito? Giovanotto, parliamoci chiaro. Io per farti studiare, per farti diventare un ufficiale, ho sacrificato una vita. Mi sono privato di tutto. Papà, ha ragione. Mi pare un matto. Ma non hai capito che tutto è finito? Per ora è finito lo stipendio tuo. E sai quando mi danno di pensione? Che ci mangiamo? E io che non vedevo l'ora di tornare a casa, sai perché? Perché me ne ero scordato quanto sei... Quando sei che? Parla! Il mangioro, salute. Prego, comodi. Mio figlio. Piacere. Geniere Ceccarelli assunto. Ah, specialista. Bravo, abbiamo bisogno di specialisti. Vieni anche tu? Dove? Al fronte. Dove? Sì, ma non subito al fronte. Prima dobbiamo andare in Germania per le opportune istruzioni. Ho telefonato al colonnello Mirabile, vi aspetta domattina alle 8. Anzi, è sorprendente, Giuseppe Sansonna, quanto andiamo su due binari che scorrono paralleli anche se sembrano antitetici. Stiamo rievocando anni di storia difficili, oggi impropriamente, secondo me, risollevate alla memoria da persone che non ebbero comunque nessun tipo di esperienza nemmeno familiare. Non dico diretta, perché ha avuto esperienza diretta, oggi è troppo vecchio o non ha più voglia nemmeno di parlare, ma nemmeno familiare. Non sanno nemmeno cosa significa avere un padre che ha combattuto o dall'una o dall'altra parte. E lo facciamo con la profondità, anche per me è abbastanza singolare e strano parlare di cose che riguardano me in una trasmissione radiofonica. E d'altra parte abbiamo questi ricordi cinematografici che sono interpretati da attori comici. La commedia, la farsa racconta i momenti più difficili e più indecifrabili della nostra storia recente. Perché si è costruito un immaginario legato a quel lato dell'italiano che appunto non crede fondamentalmente a nulla e ha bisogno di rovesciare un po' in farsa. Però qui questo è uno dei casi rari, quello che abbiamo ascoltato è Tutti a casa di Comencini del 60, quindi siamo 15 anni dopo la guerra, in cui Sordi tratteggia un personaggio eroico, cioè dopo l'armistizio lui ritorna a casa e piano piano prende coscienza, non si arruola alla Repubblica di Salò e prende coscienza addirittura quando vede ucciso il suo commilitone che è Serge Gianni, prende il fucile e cerca di lottare per la resistenza, quindi fa un ruolo anche lontano un po' dalla sua psiche solita condivisa in moltissimi film, ha trovato una sorta di riscatto, di presa di coscienza, quindi comico sì, mantiene delle sfumature comiche, mantiene dei momenti farseschi, ma di fondo era estremamente attinente alla realtà. Sì, c'è un sentimento forte, non c'è qui non c'è il sentimentalismo, perché ben misurato, cioè Comencini era uno che sapeva essere misurato e calibrato nei toni, e Sordi diretto da altri riesce a essere grandioso, contenuto nelle sue derive. Riuscivano a essere, in questo erano grandiosi questi registi, questi autori, avere una loro poetica che esulasse dalla retorica del racconto, del documentario, del documento ideologico. Lo raccontavano con tutte le sfumature e con tutte anche le sublimi bassezze e infingardaggini che fanno parte proprio della storia dei protagonisti di quegli anni. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Il segretario si è un po' preoccupato, Che c'hai paura? Che vada a Roma, che qui ha levato una nuova razza bovina? Una nuova razza? Le vacche da corsa. Saranno poche, ma si spostano da una fattoria all'altra a velocità incredibile. Cosa volete dire? Che voglio dire? Mangia tu che mangio io! Au! Tutti ai rinfreschi! Omero, ma che cos'hai? Niente, forse ha bevuto un sorso di più e... Quando papà assuda è brutto segno, No. Ma di che ti preoccupi? Del fatto dell'aeroporto? Ma che... Puoi sempre dire che c'è l'aeroporto. 800 24 00 24, stiamo cercando nel 65ennale anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana di resettare il disco rigido della nostra memoria, cercando di riportare in superficie i ricordi che ci raccontano ciò che accadde prima di quel 2 giugno. E cerchiamo, e vedo che lo stanno facendo con grande dovizia i nostri ascoltatori, di individuare il supporto di questo ricordo. Lo avete ascoltato in famiglia da un diretto protagonista di quegli eventi, lo avete letto in qualche libro o lo avete, come stiamo facendo noi questa mattina, visto al cinema. Ci rendiamo conto, non è la prima volta che lo confermiamo assieme a Giuseppe Sanson, che la commedia italiana, che erroneamente viene considerata un sottogenere rispetto alla aulica e austera narrazione storica, era un formidabile mezzo perché i ricordi si mantenessero vivi. Anni ruggenti, Giuseppe Sanson. E di Luigi Zampa del 62, che immerge nel mondo gogoliano una Matera in cui arriva Manfredi, che è Omero Battifiori, ovvero un agente assicurativo che viene scambiato per il podestà in incognita, quindi tutti si pur lui presentandosi come quello che è, viene scambiato per appunto un indagatore delle... Circola il virus del leccaculaggio improvvisamente in tutto il paese. Improvvisamente appunto tutto l'entourage fascista del luogo appunto sposta vacche da una parte all'altra per mostrare che le aziende agricole vanno avanti, che c'è un'adesione totale al regime. Siamo appunto in pieni anni ruggenti, in pieni anni 30, in realtà poi si disvela fondamentalmente l'antropologia italica, che non muterà neanche con la caduta appunto del regime. Quella è una costante nella patologia che stiamo individuando, abbiamo detto una sorta di bipolarismo ideologico, certo. Questo rimane uguale, gli anni 30 sono identici a quello che sta accadendo oggi nelle piazze italiane, che accadrà fra 10 anni, nelle stesse vicende che poi si riflettono l'una dopo l'altra, c'è una sorta di ricorso storico. Ovvero parentopoli, ovvero cementificazione selvaggia, mentre non c'erano anche accenni di intimidazione familiare, con istigazione offerte, familiare. Offerte, sì. Tutti i crismi italici rispettati, e poi c'è la miseria nera, che qui il sud è metafisico, non è identificato, però il film è girato a Matera, quindi c'è gente che vive nei sassi, nelle caverne, che poi supplica. E questo Zampa è molto abile a dosare quel minimo di retorica efficace per evitare sbrodolamenti e sbraccature che hanno chi li ebbe. Sentiamo Franco. Franco, buongiorno. Buongiorno a voi. Siamo in attesa di, sì, pronto? Del suo ricordo. È un buongiorno. Po' lento a venire in superficie, ma aspettiamo che ce sì, lo racconti. Pronto? Sì, sì, la sentiamo, ecco, bene. Buongiorno. Allora, io ho 51 anni, mio padre ne ha 85, carabiniere volontario 18 anni e lui è nato nel 26. Lei è figlio di un carabiniere, quindi. Un carabiniere, sì, carabiniere volontario, ha un nome bellissimo, che è raro ma bellissimo, che è Bonifacio, nome nomen, penso che veramente nella sua vita... è un nome da papa, figuriamoci. Esatto. Un carabiniere col nome da papa aveva davanti a sé la gloria assicurata. Esatto, lui è stato mandato a Roma, è stato a Roma nel 44, 45, 46. Uno dei ricordi che ho da bambino è questo termine pezza da piedi, che rivolgeva a poveracci o a mezzi delinquenti o comunque a qualcuno trattato male. Poi crescendo dai suoi racconti... Lo sa perché l'etimo qual è? La pezza da piedi non è che i calzini siano un'invenzione recente. Esatto, erano esatto. Quelle schifose fasce con cui i soldati si fasciavano i piedi, che poi la sera erano... putrefatti, pieni di piaghe, di pusto e via dicendo, quindi la pezza da piedi è quanto c'è di più orripilante, più basso nel vestiario umano. Esatto, e lui raccontava che credeva, prima o poi di finire sulle montagne dell'Appennino Emiliano nel 46-47, che il peggio fosse fare la guardia all'altare della patria in luglio e togliersi appunto la pezza da piedi, le pezze da piedi la sera. Ma mi ricordo quello che lui ha più netto, che io ho anche tramandato da lui da bambino, è quello relativo alle sue guardie al Quirinale. Quindi nel periodo poi nel breve periodo del re di Maggio, quindi di Umberto, che lui ricorda ancora. Quindi ha fatto la guardia al più sfigato del re d'Italia, se si possa mai fare una classifica di questo genere. Ma soprattutto si è fatto prendere in giro da quello che poteva passare alla storia come il più sfigato ancora del re d'Italia, che è Vittorio Emanuele. Mio padre ha un pessimo ricordo. Ce lo racconti, così aggiungiamo alla storia un brandello che ancora era non così chiaramente espresso. Mio padre ha un pessimo ricordo di Vittorio Emanuele bambino e devo confessare che quando... Tirava i sassi, i topi morti, le lucertole, li tirava per la giacchetta. E poi è cresciuto, si è evoluto. Rimanere impalati naturalmente nel picchetto. E lui ha sempre detto che da piccolo si è visto quel personaggio, diciamo, contraddittorio, usiamo un eufemismo, che sarebbe diventato da grande. Mentre invece ha un ottimo ricordo di Umberto. Cioè tirava i topi morti alle guardie del Quirinale. Sì. I sassi, i topi morti, l'uccello, tutto quello, e cercava naturalmente di andare avanti, faceva le boccacce. Il principino poteva permettersi questo. Il principino poteva permetterselo. Mentre il padre, mio padre lo ricorda come un gentiluomo, e probabilmente è stato uno degli ultimi italiani a vederlo al momento della partenza per l'esilio. Sì, c'è una foto storica che riesce vestito da piccolo borghese, con un cappottino, un impermeabilino, tristissimo, sale in macchina, dà la mano e se ne va. Esatto, che saluti dal finestrino. E lui li fece schierare, non pretendendo, tutti quelli che erano quel giorno di guardia, li fece schierare non pretendendo che... Ma cos'erano i granatieri suo padre? Perché la guardia si alterna al Quirinale. Carabinieri. Li fece schierare, non pretendendo naturalmente che stessero sull'attenti, ma uno a uno li salutò, a ognuno di loro diede un pacchetto di sigarette dicendo questa è l'ultima cosa che mi è rimasta, grazie e buona fortuna, e se ne andò. Un augurio di buona salute comunque alla sua guardia, andandosene lasciò quest'ultimo piccolo ricordo, dice: dopo il bene che vi ho fatto, fatevi una fumatina alla mia salute. Rosa Maria. Buongiorno. Allora, adesso cosa ricordo? Allora, avevo 3 anni, mio padre davanti allo specchio, vestito militare, deve aver avuto la camicia nera perché lui era entusiasta. Beh, quella una se la ricorda, se era nero o bianca, no, è una macchia di colore che di solito rimane impressa. Dunque, con quei calzoni grigi, gli stivali. Gli stivali, bravo. Certo. Con gli stivali. Con gli speroni. Bellissimi. No, gli speroni non li ricordo. No. Però era bello, era contento. Con quella bella fascia in vita. No, forse non era, era ufficiale, ma non credo. No, era in casa poi, davanti alla. E lui smette la divisa in casa, che faceva? Sì, perché voleva vedersi. Come Alberto Sordi quando fa il vigile, che gli danno la divisa. Ma io vi racconto quello che ricordo. E lei era bambina e cosa faceva? Lo aiutava a infilare gli stivali? No, non ironizzi. No, i bambini sono facendo. Quindi, no, guardi, ho avuto una generazione di nonni, genitori combattenti, quindi... Io a casa mio nonno faccio ancora vedere quell'attrezzo di legno che serviva per sfilare gli stivali, ci faceva giocare a sfilargli gli stivali, quindi ironizzo su me stesso. Però semmai. lo guardavo e non, però lo vedevo contento, io non avevo nessun sentimento. Lui era contento di partecipare. Che anno è più o meno, si ricorda? Che, mi dica? Che anno potrà essere stato? Dare una data al suo ricordo. Sì, l'ho senz'altro. Sono nata nel 38, quindi eravamo all'inizio della guerra, quindi avevo quei 3 anni. Però capivo bene, ero a Bologna e capivo soltanto la sua gioia, il suo entusiasmo. L'avevano ben ingannato. E comunque era guardi, la divisa, se no i soldati non andrebbero a farsi ammazzare, la divisa ha questo grande privilegio che una volta che uno se la mette ha come l'impressione di essere invincibile, invulnerabile. Se non avessero la divisa, l'uniforme, i soldati, non si sentirebbero 10.000 una sola persona. Questa è la fregatura, ma anche la gloria della divisa. Uno si mette in divisa e pensa di essere invincibile, perché si vede ripetuto in migliaia di altre persone. Quindi dice: non sono solo, siamo tanti. E poi magari muore soltanto lui. Silvia. Buongiorno Nicoletti. Dunque, io ho 45 anni e ho un ricordo legato alla biografia che scrisse il mio bisnonno quando era in vecchiaia, dopo gli 80 anni, in cui ripercorre tutta la sua storia. Lui mi sembra fosse nato alla fine degli anni dell'Ottocento e aveva avuto una gioventù molto avventurosa, era un libertino, si era sposato, aveva avuto tanti figli. Tra e nel diario nonna... erano scritti particolari del libertinaggio o stendeva un velo pietoso come usava in quegli anni? No, era, diciamo, raccontava dei particolari, ma con dignità, ecco. Cioè diceva intima d'azione, cose del genere. E lui era diventato l'amante appassionato di una famosa pittrice che aveva lo studio alla Garbatella a Roma, e quindi viveva questa doppia vita, infatti il libro si chiama Le due strade, viveva questa doppia vita: da una parte la famiglia, la moglie che era bellissima, era la più bella del paese, i figli meravigliosi, e dall'altra questa avventura con questa pittrice che ovviamente lo lusingava moltissimo e gli ha fatto un ritratto che noi abbiamo adesso in casa. E poi ha tutta una serie di peripezie, deve scappare di casa per varie questioni e a un certo punto approda, mentre arriva la guerra, per cui viene richiamato, parte per la guerra, va in Albania, viene preso prigioniero, e poi nel diario la parte della prigionia è proprio delirante, si vede che aveva sofferto parecchio. Ma la cosa strana e che viene fuori dal diario è che mentre prima di partire per la guerra lui era antifascista e aveva anche delle difficoltà a trovare lavoro, a realizzarsi, come, perché aveva anche questa, era famoso per essere antifascista. Quando torna dalla guerra in cui tutti diventano antifascisti, diventa fascista. Lui, esatto, ha una conversione, probabilmente perché gli era stato, mi sembra, ucciso uno dei figli più grandi. Comunque guardi che fa parte della fantastica maniera di porsi di fronte alla realtà, questa sorta di opportunismo al contrario, essere per partito preso sempre dalla parte del perdente, avere l'orgoglio e la sfrontatezza di stare dalla parte di chi perde. Conosco benissimo, perfettamente, la vertigine e il piacere che si ha a stare dalla parte di chi perde sempre. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Perché, perché? Perché cosa, mamma? Perché tanta gente voleva del re? Perché? Forse c'è della gente che lo accusa di essere andato nel sud. Lei lo accusa di essere scappato? No, non sono io. Scusi, signora, ha detto andato, non scappato. Ha detto andato, ma ha fatto così con la mano, che vuol dire scappato. Beh, vabbè, è andato, scappato. Perché non è andato nel nord? A combattere i tedeschi con i partigiani? Ma Silvio aveva 70 anni, piccolo, malaticcio, andava con i partigiani. Chi parla di partigiani? Io. Canaglie che non hanno fatto altro che confusione. Bravo! Ma che ride sotto i baffi lei? Vogliamo parlare seriamente su questo argomento? Silvio, ma di che vuoi parlare? Siamo ospiti, stiamo per mangiare. Ecco, io una sola. 800240024, stiamo insieme a Giuseppe Sansonna riguardando alcuni sintomi, alcune avvisaglie che ci ricordano momenti, discorsi fatti, esperienze di passaggio di sapere generazionale, perduto come si perdono gli esseri umani, come l'anagrafe impone ad essere cadavere le persone che hanno vissuto concretamente la storia, ma il ricordo dei figli e dei nipoti molte volte si riattacca a frasi tipiche come questa, prese da una vita difficile diretto a Dino Risi. Sono frasi sentite in casa 100 volte, i commenti a quella che fu la guerra civile, a quello che furono gli anni della guerra, discorsi familiari fatti a tavola mille volte e ascoltati da noi bambini, non avranno mai lo stesso spessore che oggi hanno le riletture storiche, i revisionismi storici, gli accanimenti e gli accapigliamenti su una storia che ormai chi l'ha vissuta veramente già fa parte di più. Questo appunto è Una vita difficile del 61 con di Dino Risi, con Sordi che, sceneggiato dal grande Rodolfo Sonego, riesce a dipingere questo partigiano che è assolutamente atipico per lui, molto fuori dalle sue corde. Non fa la macchietta Sordi in questo film. È molto misurato, addirittura eroico, e anche se da un momento all'altro ti aspetti che dietro il lampeggiare dei suoi occhi lui sovverta tutto col suo consueto e profondo e immarcescibile cinismo, però riesce a reggere per tutto il film. È memorabile la scena in cui sputa davanti al Naita di Viareggio, davanti alla disillusione che ha dopo la guerra, alle macchine dei ricchi che passano. Quindi è un giornalista utopico, disilluso. Qui lo cogliamo in una cena in cui va con la moglie Lea Massari davanti a questa aristocrazia monarchica obsolescente che appunto aspetta il referendum e davanti alla sconfitta sparirà, si dissolverà, mentre loro, i poveri, divorano il pasticcio enorme. Ma non è che sparirà, è stata risucchiata dal proprio circolo ristretto, si è ritirata nei loro palazzi, ma non sempre nei palazzi, anche nelle loro casupole, perché il sentimento e la fedeltà per il re è una cosa condivisa a tutti i livelli. Non pensiamo soltanto agli anarchici come nobili aristocratici decaduti, ma erano persone anche appartenenti alla classe media, al popolo. Per esempio Totò era un folle monarchico, però Totò aveva quella dimensione epica, favolistica, no? In cui, da principe per l'appunto. A proposito di Totò, sentiamo anche lui, perché è un altro dei personaggi meno presente nelle nostre evocazioni, che però ha raccontato questa post-storia attraverso il cinema. Gioventù bruciata, ve ne state qui a gozzovigliare mentre i vostri fratelli difendono la patria in armi, imboscati? Noi siamo 50 anni. Cosa vuol dire? L'età non conta, la vita incomincia a 40 anni. Quindi voi siete ancora figli della lupa, lupacchiotti. Italiani! In questo momento cruciale per la vita del paese, ognuno di noi deve sentire il dovere di rendersi utile, di servire! Maresciallo, il caffè è servito. Appunto dico. Perciò anche voi, malgrado la vostra età, potrete avere l'onore e l'orgoglio di servire la patria arrollandovi nella WAF. La WAF? Ma che è sta WAF? Come che è sta WAF? Che ignorante. Volontari, ausiliari, forza polizia. Chi è per la WAF resti all'impiedi. Chi è anti-WAF si metta a sedere. Ma WAF? Ma WAF? Che se ne fa WAF? Continua la frase del coraggio. Sentiamo Alberto velocemente, Alberto che aspetta da molto tempo. Niente, io penso, grazie intanto, ho anch'io gli occhiali del sessantino che ha guardato un po' questi fatti, raccontati nell'ultima fase della vita di mio papà, perché quasi se ne vergognava. Lui praticamente fugge da Venezia perché lo mandavano se no a Monaco a fare l'operaio alla BMW. E va a trovare. Sì, gli italiani vengono deportati a fare lavoro forzato nell'industria tedesca. Certo, e quando si accorge che nel monte non si muova, se no sembra che abbia la voce rotta. Sono fermo. Dalla commozione, in realtà è la linea telefonica. Certo, che nel monte Pelmo, che attraverso dei ragazzi muoversi durante le mattinate, salta alla finestra e raggiunge questi ragazzi. Ma lei dice una cosa però, Alberto, che quella generazione, i genitori combattenti dall'una all'altra parte, erano molto resti a raccontare i particolari. Soltanto in età più avanzata hanno cominciato ad allargare i cordoni della borsa e i loro ricordi, è vero? Come giorno della vecchiaia, lui ci ha raccontato quello che lui ha fatto e che ne sapeva pure. perché è venuto via di là sfiduciato, perché alla fine della guerra qualcuno, sapete meglio di me, ha approfittato. Era un sentimento comune, però purtroppo sono costretto a segarla perché la linea non ci aiuta e siamo proprio in conclusione. Abbiamo sentito Totò nei due marescialli, Giuseppe Sanzoni. Di Sergio Corbucci c'è la solita maschera intercambiabile dell'italiano in quel momento, cioè ladruncolo Totò diventa maresciallo con il suo linguaggio fra il burocratico e l'impiegatizio, che appunto diventa cita sigle come quella della WAF, tutto si sovverte nel linguaggio. Cioè l'idea che in realtà al di là dell'ideologia molte volte mettersi una divisa è anche un travestimento, anche un'idea di camouflage delle proprie risorse, per mettere appunto le loro risorse, un finto prete e un finto maresciallo che poi si inseguono continuamente. Sentiamo Stefania, buongiorno. Buongiorno, ho 65 anni, chiamo da Ferrara. Volevo parlarvi del racconto che faceva mio padre, come dicevi tu Nicoletti, ripetuto non so quante volte, del fatto che lui... Lei è figlia della Repubblica, 65 anni, è nata proprio l'anno della Repubblica. Esatto. Lui raccontava, era andato militare perché chiamato per l'età, era andato in Albania e poi, almeno il ricordo che ho io di questi racconti frammentari, non ha mai parlato di momenti cruenti. E invece raccontava del suo viaggio partendo dall'Italia meridionale per ritornare a Ferrara. Sì, questo è tipico del reduce nel periodo di post-guerra, di ritrovarsi lontanissimo da casa e un po' per paura, un po' per bisogno, un po' perché non c'erano i mezzi, dei lunghi passaggi, attrezzano l'Italia a piedi, ci mettono mesi, esatto. E arrivano a casa dopo mesi. E c'è quella famosa canzone "Da solo me ne vo per la città", è il reduce che torna alla città distrutta, si guarda intorno e non c'è più niente di quello di cui che gli era familiare, si guarda intorno e vede ma dove sarà l'amore mio perduto. Diciamo sorpreso dall'atteggiamento dei meridionali che incontrava. Naturalmente lui mangiava quello che trovava. Raccontava spesso di un episodio: si trovava su un albero a mangiare della frutta e il contadino si avvicinò col fucile, no? Certo, giustamente. E in dialetto meridionale gli diceva: "Scenda basso, che t'ammazzo!" E lui è ferrarese? Lui non scese e riuscì a superare l'ostacolo. In un'altra famiglia invece raccontava di una frittata gigantesca di 24 uova dove con tutta la famiglia aveva mangiato, eccetera. Sì, era il sintomo classico dell'opulenza riacquistata, delle frittate fatte da una molteplicità di uova. C'è anche un film, tu adesso ti vediamo se in conclusione, che c'è Sophia Loren e aspetta, mi sembra che sia, non ricordo, un altro attore, che si fanno una grandissima frittata di tonnellate di uova, un frittatone altissimo, e se la mangiano dopo aver fatto l'amore. Era il sintomo tipico, le uova c'erano, non mancavano. Però era un periodo epico, quello pieno di road movie attraverso l'Italia, come abbiamo sentito tutti i racconti, cioè era pieno di avventure possibili, appunto settentrionali che conoscevano meridionali, viaggi continui e trasversali. Comunque adesso ci seguono, la sigla dice che la trasmissione è finita, ormai avranno riempito il bagagliaio con tutte le attrezzature per passare questo lungo ponte del 2 giugno, non so quanto la gente ancora potrà interessargliene, visto che parte il grande, fantastico e unico ponte di questo anno. Ciao Giuseppe Sanzonna, grazie a Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, noi ci sentiamo lunedì. Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.